ora in onda Rock Revolution. You say you want a revolution. Well, you know we all want to change the world. You tell me that it's evolution. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Ask me for a contribution. Well, you know we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be in diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Che bello, anche qui abbiamo questa jingle, non lo sapevo. Beh, buonasera, ben trovati su CRM Happy Radio. Siamo pronti a iniziare questa puntata speciale di Rock Revolution. Infatti siamo alla Disco Pub Ares, incontrata a Gallizza, e per una serata speciale, perché avremo il piacere di ascoltare una band fantastica. Tra l'altro, Simone, buonasera. Anzi, buonasera, buonasera a tutti voi. Salutiamo anche la nostra regia questa sera, Gianni, in redazione immancabile, anche Ida. E abbiamo quindi da qui a poco il piacere di ascoltare una band che ha fatto parte di una nostra puntata qualche mesetto fa, se non erro. Sì, avremo il piacere di ascoltare infatti Sintetico, che abbiamo ospitato dicembre scorso. Abbiamo apprezzato la loro musica, abbiamo avuto il piacere infatti di invitarli qua alla Disco Pub Ares, Disco Pub, per ascoltarli finalmente dal vivo. Infatti, tra l'altro, vogliamo invitare tutti gli ascoltatori a venirci a trovare, anzitutto per il Sintetico, ma anche perché poi da quest'anno l'Ares è anche appunto un Disco Pub, oltre a pizzeria. Era conosciuto per pizzeria, adesso c'è anche questo locale molto bello, nuovissimo, per ascoltare la musica, insomma mangiare anche un panino, una pizza, qualsiasi altra cosa. Quindi veniteci a trovare, cogliete la palla al balzo per questa sera, che tra l'altro vi offrirà anche della bella musica, la musica dei Sintetico, che abbiamo appunto già intervistato durante le nostre puntate, che ascolteremo questa sera in versione elettrica, no Simone? Perché l'ultima volta abbiamo sentito una versione acustica della band. Assolutamente sì, infatti ovviamente qui avremo la possibilità di ascoltarli con tutti i vari cavi e cavetti. Infatti, in versione elettrica, diciamo così. E quindi vabbè, iniziamo a fare un po' di musica mentre la band insomma si prepara per lo spettacolo di questa sera, e andiamo un po' indietro nel tempo. Iniziamo questa sera con una canzone di circa una ventina, no, trentina di anni, forse anche 40, insomma abbastanza vecchia. Stiamo parlando dei Doobie Brothers con Long Train Running. No, our sun is loose down along the tracks. Questa sera iniziamo con questi classici davvero molto belli, insomma quei sempreverdi, no, che si ascolta con molto piacere spesso, tra l'altro molti di questi, in particolare dei Doobie Brothers, è stata colonna sonora di film molto belli, chiaramente girati in America per lo più. Vabbè, allora volevamo ricordarvi che siamo anche su internet, chiaramente al nostro sito internet www.crmpradio.it, quello del nostro programma www.rockrevolution.it, da lì potete insomma mandare i vostri messaggi e interagire con noi se avete voglia. Tra l'altro potete cogliere l'occasione per salutare qualche amico che sarà questa sera qui all'Ares, da dove stiamo trasmettendo la nostra puntata speciale di Rock Revolution. Un altro classico è di Coran, Come On Everybody. Doing my homework all the week long, and now the house is empty and my folks are gone. Woo, come on everybody. Oh well, my baby's number one, but I'm gonna dance with three or four. And the house will be a shaking from the bare feet a slapping on the floor. Well, when you hear the music, you just can't sit still. If your brother won't rock, then your sister will. Woo, come on, everybody. Oh, well, we're gonna have a party, but we gotta put a guard outside. If the folks come home, I'm afraid they're gonna have my hide. There'd be no more movies for a week or two. No more running around with the usual crew. Who cares? Come on, everybody. Volevo subito salutare Giuseppe Barranco e tutta quanta l'associazione Cefalù nel Cuore, che questa sera ha organizzato questo evento davvero molto particolare, molto bello. A noi fa piacere perché insomma dove ci sono attività e soprattutto attività di giovani che si impegnano in politica, in altro, in musica, in tutto quello che comunque fa del bene, ben vengano. Un altro grandissimo classico, vabbè, avete sicuramente riconosciuto, Simone. Su internet quanti utenti siamo? Possiamo già dirlo? Facciamo sapere fra un po', perché stiamo studiando un po' le classifiche del momento. Come sapete, possiamo sapere dovunque voi siate e in quanti siete, quindi state attenti, un occhio vi gira su di voi. Allora, ci siamo documentati e siamo arrivati a più di 242 utenti online che ci seguono in streaming. È una bella cosa, soprattutto sapere che ci seguite anche da altri paesi. Abbiamo visto Germania, dalla Francia, dalla Spagna, insomma, dalla Svizzera anche, infatti. Quindi salutiamo un po' tutti quanti gli amici che oltre Alpe ci seguono, e così insomma avrete un po' modo di vivere assieme a noi questa serata particolare. Gianni, stasera dentro il balconcino con i capelli lunghi sembra un po' Romeo e Giulietta, non lo volevo dire ma l'ho detto. Simone. Sì, tra l'altro anche su Facebook abbiamo veramente tantissime che ci seguono sempre, anche in streaming, cercano sempre canzoni, voglio sempre tantissime dediche, cerchiamo ovviamente sempre di accontentarli su CRM durante la giornata, insomma, anche qui durante Rock Revolution arrivano sempre tantissime richieste, anzi vi invitiamo sempre a seguirci, a chiederci le canzoni e cercheremo ovviamente di accontentarvi. Bene, adesso allora l'Europe Final Countdown. I know the feeling, just let it grow. I'm in a rage, up from my head down to my toes. You know it ain't easy, running out of thrills. You know it ain't easy, when you don't know what you want. What do you want? Rock the Night, che è leggermente diversa dal Final Countdown, che è comunque una canzone che tra l'altro ha riscosso un grandissimo successo anche grazie al video. Non so se ricordate questa scena con le riprese dall'alto nel fiume nel Rio delle Amazzoni, insomma un video abbastanza particolare degli Europe. Allora questa sera saremo tutti noi di Rock Revolution, chiaramente c'è Simone, Ida, Gianni e il sottoscritto, in più verranno a trovarci anche degli amici che sono anche dei colleghi di radio, e stasera in versione versione rock. Tra l'altro avevamo anche avuto il piacere qualche puntata fa di avere ospite lui e un'altra signorinella che forse stasera non c'è ancora, e ancora prima avevamo avuto il piacere di avere per la prima volta Stefano in versione Rock Revolution. Ti ricordi quando eravamo giovani? Sì, quando eravamo giovani, che ancora si faceva rock and roll di quello duro. No, complimenti, bel posto, bel locale. Stasera siamo qua in diretta da questo nuovo locale molto bello. Io sono in versione rock perché non è il mio programma, mi sono imbucato. Questa sera almeno ti toccano un 2-3 chip e chop. Tanto minimo. Sei venuto in bicicletta, quindi puoi andare tranquillo dove vuoi. Esatto, poi tra l'altro adesso arriverà anche Stefania, quindi ci farà compagnia alla mia partner per quanto riguarda la radio. Ecco, infatti, come sta andando il programma? So bene. Che già avete avuto un sacco di consensi su internet, anche in streaming vi seguono molte persone. Sì, sì, no, il programma sta andando veramente molto bene. Durante la diretta ci mandano parecchi messaggi, abbiamo parecchia gente che interagisce con noi, insomma. Poi lo stiamo modificando un po', oltre alla classifica stiamo andando a mettere anche un po' di news, di novità. È molto più parlato rispetto all'inizio. Quindi un appuntamento dove si può parlare tranquillamente del calcio, ma anche della moda, assolutamente del gossip, di tutto. Bene, allora sì. Ricordiamo la Speedy Top con Stefano Scalia e Stefania Genco il lunedì, giusto alle 21. Dalle 21 in poi, dalle non 21. Abbiamo un orario di fine perché iniziamo. Dipende. Poi casomai ricominciate da uno, dalla posizione numero 20 a ritroso. Esatto. Vabbè, rimarrai un pochettino con noi. Quindi sto magari con voi fino a notte fonda. Che bello, benissimo. Facciamo ancora musica su CRMP Radio, Rock Revolution, questo venerdì sera in versione live. Siamo all'Ares in Contrada Gallizza a Cefalù. Se avete piacere, veniteci a trovare. Questa sera ascolteremo il Sintetico da Palermo, una band fortissima che vi consigliamo assolutamente di guardare e di ascoltare dal vivo qui da noi. Adesso è Finlay, musica italiana, ogni tanto dobbiamo farlo, non ce ne vogliamo. Loro cantano Adrenalina. Buon ascolto. Cerco un'alternativa che tiene scossa la mia normalità. Se il rock è la tua passione, non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. Now I know, now I know, now I know, now I know that it's you. lucky, you're so lucky, lucky, you're so lucky, you're so lucky, lucky, you're so lucky, lucky, lucky, you're so lucky. I'm Guns N' Roses Paradise City su CRMP Radio per Rock Revolution, questa sera live dall'Ares Disco Pub incontrato a Gallizza. Salutiamo tutti gli amici che sono già arrivati, gli altri che arriveranno, e facciamo ancora un po' di musica. La band ormai ha preparato tutti gli strumenti, insomma, per far musica, e sono pronti, quindi da qui a poco faremo anche con loro un'intervista per conoscere questo loro nuovo progetto che stanno promuovendo in giro per la Sicilia, e quindi sintetico tra poco su CRMP Radio. Sappiamo siete tantissimi in streaming, quindi salutiamo tutti quanti voi, vi auguriamo un buon venerdì sera se ci seguite sia su internet chiaramente, ma anche in radio su 101.4 di CRMP Radio. Continuiamo con un pezzo di relativa recente produzione dei Green Day, infatti a quanto pare stanno già lavorando ad un altro nuovo lavoro e sono pronti per la pubblicazione, ci sono già le prenotazioni addirittura nel sito ufficiale. Questo invece era American Idiot. American Idiot, Green Day su CRMP Radio. Questa sera davvero una sera un po' strana, perché abbiamo iniziato con una bella giornata e poi pian piano durante la giornata si è annuvolata, sono arrivate le prime nuvole, però insomma finora non ci possiamo lamentare, a parte qualche goccia caduta dal cielo possiamo dire che è stata una bella giornata. Allora sono qui al tavolo seduto con Eva, buonasera Eva. Buonasera a tutti voi, buonasera. Ci si incontra nuovamente per questo evento dal vivo, finalmente. Noi abbiamo detto insomma durante la nostra intervista in radio che aspettavamo con ansia questo momento, e finalmente stasera siete tornati a trovarci a Cefalù. Sì, se le avete mantenute, noi stasera siamo qui molto emozionati perché siamo in tour per la promozione del nostro EP che si chiama appunto Sintetico, e quindi stasera speriamo davvero di divertire un po' tutti e anche coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Assolutamente, salutiamo tutti quanti gli amici su internet che ci seguono. Abbiamo fatto una foto bellissima l'ultima volta che ci siamo visti a Cefalù con le mani in alto. Avete ancora le mani in alto? Le mani le teniamo ben in alto, guerrieri come sempre. Beh, ci auguriamo che il pubblico stasera insomma possa alzarle assieme a noi. Voi avete un curriculum veramente invidiabile, avete partecipato a tantissime manifestazioni, Rock Targato Italia, Arezzo Wave, aiutami tu. Abbiamo vinto col Festival di Caltanissetta uno stage da Mogol, e questo ci ha dato la possibilità sicuramente di crescere, di studiare per bene. Ed ecco uno dei motivi per cui abbiamo tratto ispirazione anche per il nostro EP, nel trovare nuovi suoni, nuove armonie, nuove parole, nuovi modi per cantare i nostri brani. Bene, bene, siamo proprio curiosi di ascoltarvi dal vivo. Nel frattempo, insomma, andate a bere una bella birretta fresca, così vi mettete a vostro agio. E sentiremo poi sintetico, grazie Eva, dopo. Li sentiremo quindi fra un pochino. Nel frattempo continuiamo a far musica su CRM Happy Radio per questa puntata speciale di Rock Revolution. Fra un po' facciamo bella musica, ragazzi, credetemi. Arrivano i Guano Apes, Your Big Fan. Questo è un pezzo di qualche annetto fa. Stasera il mio caro Gianni ha preparato una playlist da sempre verde, chissà perché. Boh, vabbè. Buon ascolto, rock and roll su CRM con Rock Revolution. Winter City side, crystal bit of smoke waits all around my head in the wind. I have no illusions that I ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen why they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're making silhouettes of strange illuminated mannequins. Shall I stay here at the zoo? Should I go and change your point of view for rather ugly scenes? You did what you did to me. Now it's history I see. Things will happen why they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. You're big in Japan. Ogni venerdì alle 21, in diretta su CRM Happy Radio, Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti. I ride through the city. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Stars come out tonight. He says the city's ripped back sides. He says the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Questa sera veramente mi stupisco del fatto che Gianni ha preparato una scaletta di tutte quante grandi classici del passato e infatti ho visto già che c'è un pezzo pronto che non ha niente a che vedere con quelli del passato e neanche di un grandissimo successo se proprio vogliamo dirlo, però insomma comunque sempre piacevole ascoltarli. Stiamo parlando di J-Ax and Styles con Più Stile. Vado in pensione, io avrò povertà. Mia mamma ha ragione, non mi so vestire, ma uno stilista che mi guarda per capire. Cavalli c'hai milioni o niente da investire. Cavalli fai calzoni, il mio cavallo ha più stile. Baglioni c'ha la villa, io devo impazzire. La casa in circonvalla però ha più stile. La casa disegnata da Bombo e Spray. Ho la faccia segnata ma non me ne vado.

John Jett and Black Hearts, I Love Rock and Roll, una canzone che poi è stata coverizzata fino alla morte, insomma uno di quei pezzi che sono stati fatti veramente in tutti gli stili, in tutti i generi musicali, in tutte le versioni, da uomini, da donne, da chiunque. Vabbè, allora siamo in diretta su CRMP Radio, ci tengo a ricordarlo, su 101.4, su internet, dal nostro sito crmpradio.it o rockrevolution.it, è un sito interamente dedicato alle band emergenti, alle band che vogliono farsi conoscere, quindi approfittatene anche questa sera, se siete a casa su internet, a visitare il nostro sito rockrevolution.it per mandare la segnalazione della vostra band, se avete il piacere insomma di farvi conoscere e di essere presenti nella nostra radio, di presentare il vostro progetto musicale. Un altro salto indietro nel tempo con i Katrina and the Waves, e questa è stata anche una colonna sonora di successo, credo il film Senti chi parla, sentito Walking on Sunshine. Continuano a raggiungermi i colleghi questa sera, carissimo, buonasera, benvenuto anche tu. Tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Dimmi dove la devo mettere, io la metto, cos'è? Fino alla lavatrice. No. Senti, allora, un altro componente dello staff della Speedy Top, il DJ, il regista, colui che mette le mani nei pulsantini questa sera, in versione rock anche tu. No, rock per me. Proprio rock? No. No, però vabbè, ci sei, diciamo, va. Vabbè, ok, allora, Speedy Top, tutto bene, come procede? Tutto bene, tutto a posto. Qua c'è il nostro amico Stefano. Che combina? Dici, dacci qualche dritta. Ogni tanto ne combina qualcuna. Ne combina qualcuna. Vabbè. Buon divertimento, è venuto anche un po' di gente a trovarci, questo ci fa molto piacere. Continuiamo con la musica, un'altra cover questa sera. Vabbè, poi avremo comunque modo di ascoltare la musica inedita che non fa mai male. Loro sono i Kid Rock con All Summer Long. It was 1989, my thoughts were short. My hair was long, caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Come sapete, in questi mesi a CRM c'è stato un corso di formazione, sei ragazzi sono stati selezionati da una rosa di 50 domande. Questi ragazzi hanno fatto un corso vero e proprio di formazione, dove hanno imparato come si sta al microfono, come si parla, come si conduce, poi hanno lavorato insomma sulla console, sulla regia, un sacco di argomenti interessanti. Insomma, ci fosse stata una possibilità del genere per me ai tempi non facevo schifo come adesso. No, beh, poi i ragazzi sono stati premiati, diciamo, sono stati dichiarati ufficialmente DJ o aspiranti DJ, e si sono suddivisi nel palinsesto della nostra emittente, chi al mattino, chi al pomeriggio, e poi c'è la nostra carta jolly che è Marco Nicolosi. Marco, buonasera. Intanto buonasera a tutti. Allora, come ci si sente da jolly? Da? Jolly. Sì, da jolly, carta jolly, sei quella che fa vincere. E infatti, fai vincere perché sei molto positivo. Marco, tra l'altro, stasera sarà con noi, farà della musica più tardi. Cosa hai preparato per dopo? Ah, qualche pezzo magari nuovo che è uscito adesso, qualcosa di commerciale. Bene, bene, quindi abbineremo il rock a poi anche un po' di musica house, no? Sì, house commerciale. House commerciale, per raccontare un po' tutti quanti i palati che stasera verranno a trovarci all'Ares Disco Pub in Contrada Gallizia, Cefalù. Vabbè, facciamo ancora un pezzo, questa l'abbiamo usata come base, direi, e andiamo avanti con il prossimo pezzo, visto che ormai l'intro è andato a farsi benedire. Andiamo ad ascoltare una bella canzone di Lenny Kravitz, che ultimamente sembra essere diventato un po' commercialotto, non lo volevo dire, però secondo me è quella la sua strada. Comunque questo era uno di quei tempi dove lui suonava la chitarra con il cuore più che con le tasche. Questa è una propria denuncia che sto facendo, e questa canzone si intitola Are You Gonna Go My Way, una canzone che tra l'altro parla un po' del quartiere dove è nato, un quartiere molto povero dove le pistole contavano più di tutto. Lenny Kravitz su CRM Radio per Rock Revolution. Allora, siamo in diretta all'Ares, questo disco pub nuovo che è aperto a Cefalù. Veniteci a trovare assolutamente, facciamo un po' di pubblicità, ci voleva una bella jingle tipo campanellino ding dong. Va bene, siamo qui con i Sintetico, che ormai sono praticamente pronti a iniziare questa presentazione di questa EP che secondo me, insomma, sarà fantastico da ascoltare dal vivo. E abbiamo un po' tutta la band seduta qui al tavolino con me, quindi Eva, con la quale abbiamo parlato poco fa, e poi abbiamo Nicola. Nicola, allora, tu sei quello che non voleva parlare, mi pare. No, ok. Allora, Nicola, è passato poco tempo, per fortuna, dall'ultima nostra intervista in radio. In questi giorni avete fatto delle presentazioni un po' in giro per la Sicilia. Com'è andata? Ma direi che è andata abbastanza bene, sia di pubblico, anche di critica, nel senso che le persone ci sono venute a sentire, dico... hanno fatto critiche insomma positive, ottime, devo dire. È andata abbastanza bene, siamo contenti di questo. Ecco, quindi io sapevo, insomma, mi ha detto Eva che adesso state progettando, insomma, un tour che vi porterà in giro per promuovere questo nuovo EP, quindi avrete possibilità di girare, insomma, la Sicilia e poi mi pare anche altro prossimamente, e quindi sarà sicuramente una bella esperienza, no? Assolutamente sì, direi. Ecco, stavamo sentendo, adesso sentiamo anche Felipe, c'è una domanda per te che è arrivata da internet: se sei argentino o brasiliano? Boh, non lo so, se vuoi... Cileno, quindi amici su internet sappiate che è cileno, secondo me è qualche donna Felipe, sai, perché il nome è Felipe, anch'io mi chiamo Felipe, quindi so che cosa significa. Vabbè, stiamo scherzando. Allora ragazzi, questa sera quindi ci farete sentire questo EP che ricordiamo si chiama... Sintetico come voi praticamente, e suonerete in una versione, in versione standard, diciamo così, cioè voi avete visto una batteria elettronica, suonate sempre con strumenti elettronici? Solo per l'occasione. Soltanto per questa occasione. Qual è la differenza principale secondo te? Ma solamente di volume alla fine. Di volume, quindi più adatto, insomma, a uno spazio piccolo. Sì, sì. Comunque per limitare, diciamo, i danni al locale. Al locale, infatti poi forse Eva mi ha detto: ma la vetrata che c'è qui nel locale è assicurata oppure no? No, vabbè, ce ne prendiamo le responsabilità, caro proprietario, stasera basta che si fa musica. Siamo contenti. Va bene ragazzi, fra un pochettino vi disturbiamo di nuovo per scambiare due chiacchiere e poi iniziamo con questa bellissima esibizione, tutto pronto. Facciamo nel frattempo un po' di musica in radio, grazie ancora, a dopo, e andiamo a spulciare di quelle canzoni che ha fatto un grandissimo successo. Parliamo di una rockstar italiana, una fra le più quotate, stiamo parlando di Luciano Ligabue, con questa canzone che conoscete, vabbè, non c'è bisogno che lo dico. Happy Hour. Dicono che tutto sia comunque scritto, quindi tanto vale che non sudi. Nasci da incendiario, muori da pompiere. Farti fuori se vuoi fare rock in qualche modo, che ti portiamo i fiori lì nei cimiteri mitici. Sei già dentro l'happy hour, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Se soffri bene vinci il premio di consolazione, chi non salta l'eccezione. Dicono che i sogni sono tutti gratis, ma sono quasi tutti quanti usati. Copriti per bene che non ti conviene il mondo qui. Sei già dentro l'happy hour, vivere costa la metà. Fare finta di essere una star. Sei già dentro l'happy hour. Vivere solo la metà. E la vita che non fame che non hai. Dicono che il cielo ti fa stare in riga, che all'inferno si può far casino, mentre il purgatorio te lo devi proprio infliggere. Sei già dentro l'happy hour. Vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Sei già dentro l'happy hour. Vivere, vivere solo la metà. È la vita che non svegli, che interessi avrà. Flashing skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff without a blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. accendono le luci. Rotto il ghiaccio, parleremo coi fantasmi. Ma è lo spettacolo e deve ancora cominciare. Lo spettacolo e deve ancora cominciare. Teste piene, teste vuote, rimbalziamo con le note dello spettacolo. Proprio così lo spettacolo si fa ancora un po' aspettare, fra poco inizieremo con lo spettacolo vero e proprio, con il sintetico qui all'Ares Disco Pub in Contrada Gallizia a Cefalù, insomma è molto facile trovarci appena provenienti dall'autostrada, dall'uscita Palermo-Messina per Cefalù o entrati a Cefalù prima del passaggio a livello, sulla destra trovate poi l'ingresso per raggiungere l'Ares, quindi se avete voglia, ci state seguendo in macchina, veniteci pure a trovare, ci sono un sacco di belle novità da farvi conoscere e andiamo a fare ancora un po' di musica. Fra un po' torneremo anche a parlare di internet con tutti gli amici su internet che ci stanno seguendo nella nostra pagina Facebook. Altro grande successo del passato, Little Richard, Bama Lama. We call her baby tender and when she talk, she said Bama Lama Lou. grande classico su CRMP Radio per questa versione live di Rock Revolution. Volevamo ricordarvi con l'occasione il sito dei Sintetico, che è www.isintetico.it, e andiamo a parlare di internet perché ho visto poco fa che ci sono un sacco di amici che ci stanno seguendo su Facebook. In questo momento Simone si è allontanato, vediamo. Allora c'è Lorenzo che ci saluta, ci fa complimenti per la trasmissione, grazie carissimo, buona serata. Patrizia da Santo Stefano di Camastra, un bellissimo posto, quest'estate speriamo di venirvi a trovare. Comunque che bella serata, da Vigo in piazza, sappiamo è molto bella e accogliente. Poi Annalisa dice tra pochi minuti arrivo, bene, la salutiamo, poi vediamo un po', qualche altro, Mimmo, vi amo, grazie, troppo gentile. Vabbè, ne leggeremo altri fra pochissimo, adesso una cover molto simpatica, The Muppet Show con Ozzy Osbourne, si intitola Born to be Wild. I like smoke and lightning. Oh, I do too. Heavy metal thunder, racing with the wind. And the feeling that I'm under. Oh, that's so sweet. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving grace. Oh, Ozzy. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a tutti i venerdì dalle 21 su CRM Happy Radio Rock Revolution, il programma rock di CRM. Grandi successi del passato e nuove proposte musicali presentati da Filippo Brancato. Allora, abbiamo il piacere, abbiamo ricordato che questo evento è stato organizzato anche in collaborazione con l'associazione Cefalù nel Cuore, poi abbiamo qui il presidente Giuseppe Barranco e abbiamo uno dei componenti dell'associazione che è Innocenzo, che ha fatto la spalla, insomma si è fatto in quattro, sappiamo, per la riuscita di questo evento. Innocenzo, buonasera. Sì, ciao a tutti, ciao a tutti coloro che stanno ascoltando la radio. CRM. Sì, oggi è stata una giornata molto importante per noi perché è finita la prima fase del torneo delle Madonie, torneo che con tanti sacrifici e Peppe abbiamo organizzato e che da lunedì vedrà la fase finale con le 8 squadre che sono rimaste in corsa per vincere il trofeo. Invitiamo tutti, nei prossimi giorni faremo sapere le date precise delle partite e speriamo, compatibilmente con la disponibilità dei campi, di fare svolgere le finali, terzo e quarto posto e la finale primo e secondo posto venerdì sera dalle 21 in poi, in quanto è prevista anche la premiazione con la consegna dei trofei da parte dei sindaci delle squadre delle città partecipanti. Vabbè, quindi un'esperienza impegnativa per te, no? So che sei andato di campo in campo il pomeriggio a raccogliere dati. Sì, è stato anche troppo impegnativo, però l'abbiamo fatto con piacere perché soprattutto portare avanti una manifestazione di questo tipo che ha coinvolto 6 città del comprensorio madonita è stato molto importante ed è stato un primo passo verso altri progetti che abbiamo in mente. Ecco, c'è Cefalù nel Cuore non solo sport ma anche ecologia. Sì, infatti sabato scorso c'è stato un importante convegno al Teatro Astro che ha visto la partecipazione dell'assessore dello sport della provincia di Palermo Michele Nasca, di Norata, dell'Ato Ecologia Ambiente, Giuseppe Guarcello, Mauro Caliò, di tutti i ragazzi che frequentano le quinte superiori delle scuole di Cefalù. Ed è stato un convegno molto importante in quanto abbiamo affrontato tematiche attuali e soprattutto, visto che il 3 maggio è iniziata la raccolta differenziata a Cefalù, appunto il nostro obiettivo era quello di sensibilizzare i giovani presenti al rispetto delle regole che prevede la raccolta differenziata. Assolutamente, CRM Piredio si batte per questa cosa qui, per l'ecologia, per la raccolta differenziata e soprattutto supporta i giovani che si danno da fare in questa bella cittadina, no? Bisogna non solo giudicare o lamentarsi del fatto che non ci sia nulla di diverso da fare, ma partecipare. Sì, infatti, quello a cui noi puntiamo è sempre più anche coinvolgere i ragazzi, i giovani di Cefalù nella nostra associazione per darci una mano, perché finora è stato veramente difficile svolgere tutto il lavoro da soli. E comunque da venerdì prossimo, poi quando concluderemo il trofeo e poi sabato e domenica ci saranno gli stand espositivi dove verranno distribuite le brochure con le informazioni sulla raccolta differenziata, finirà, diciamo, la nostra prima fase di attività, inizieremo la programmazione della seconda fase e coloro i quali volessero darci una mano sono invitati a farlo. Come possono farlo? Consultando il nostro sito www.cefalunelcuore.it e anche, diciamo, contattandoci alle nostre mail personali innocenzo.iacono@virgilio.it. Perfetto, Innocenzo, ti ringrazio e ti auguro in bocca al lupo, un'iniziativa lodevole, questa di Cefalù nel Cuore, andate avanti così che andate forte, grazie. Grazie, crepi. Va bene, allora facciamo l'ultimo pezzo e poi inizia lo spettacolo dal vivo con il sintetico qui all'Ares in Contrada Gallizza a Cefalù. A dopo. Play out like a scene, straight off the silver screen. So I'll be holding my breath. tutto pronto per iniziare questo spettacolo fantastico con i Sintetici stasera in occasione della presentazione del loro nuovo EP, e quindi credo sia praticamente tutto pronto. Eva, come siamo messi? Possiamo iniziare? Sì, sì, noi siamo prontissimi. Voi? Noi siamo pronti, quindi presentazione ufficiale. Buonasera, benvenuti all'Ares. Inizia in questo momento il concerto di presentazione del loro nuovo lavoro da Palermo, il Sintetico. Grazie. Grazie. Complimenti, complimenti. Allora ragazzi, questa sera stiamo proponendo la vostra musica. La scorsa volta abbiamo fatto in radio con uno spazio abbastanza ristretto. Questa sera per fortuna un po' più spazio a disposizione per conoscere questo vostro nuovo EP. Tra l'altro voi non siete nuovi, detto dalla redazione, perché avete partecipato al Che Fart Festival qualche anno fa. Sì, è stata anche una bellissima esperienza sul lungomare, c'era tantissima gente. Ed estate sicuramente, la nostra cittadina, devi sapere che d'inverno conta circa 15.000 abitanti, d'estate si trasforma, arriviamo quasi a 50.000, insomma un numero abbastanza importante, una bella manifestazione che tra l'altro colgo l'occasione di ricordare poi verso metà di luglio ogni anno con Nicolò Pizzillo, un caro amico che salutiamo, il Che Fart Festival, un evento dove si propone musica inedita, e questo è un aspetto molto importante. Allora, questo live di presentazione come sta andando? Abbiamo saputo, abbiamo parlato un po' prima dell'aspetto delle recensioni, di quanto il pubblico risponde alla nostra musica, ma voi, cioè in una situazione dal vivo, dopo essere stati tanti mesi in studio a registrare, cosa vi passa per la testa? Allora, in questo momento abbiamo incamerato così tanta gioia nel lavorare che adesso siamo proprio, vogliamo scoppiare, e questo arriva al pubblico e noi di questo siamo felicissimi, per cui vogliamo suonare. Beh, mani in alto è anche l'espressione di liberazione, no? Sì, questo sicuramente, sì, anche questo, anche mani in alto, ma un po' anche tutti i nuovi brani che ascolterete anche questa sera sicuramente provengono da una forte voglia di suonare, vogliamo avere un forte impatto col pubblico soprattutto. Vi ringrazio se iniziate con la seconda sequenza di brani per la presentazione di questo nuovo EP, Il Sintetico. Thank you. Grazie. Adesso Sensaria è un brano che abbiamo fatto con la collaborazione di Luca Riello, ex cantante di Alma Megretta, oggi solista col suo nuovo album I Nuovi Mille. Sensaria. Sunny side. Grazie. Allora Eva, sono arrivati un sacco di messaggi su Facebook, degli amici ci stanno seguendo, siamo oltre 215 utenti soltanto nella nostra web TV, che stasera si è trasformata in una web radio, perché chiaramente non abbiamo le telecamere, e adesso la nostra redazione sta raccogliendo un po' di messaggi, poi se hai piacere risponderemo. Certo, allora, sono messaggi buoni, sì. Quelli cattivi... Rispondi tu. Scusa, ti ho dato una microfonata in faccia, mamma mia, speriamo che possa cantare ancora, no? Sì. Allora, c'è un'energia fantastica nelle vostre canzoni, la scelta dei testi in italiano, abbiamo parlato in radio insomma di questa scelta, e quindi parlare di comunicazione, cioè parlare di quello che trasmettono i messaggi, è facile, perché basta ascoltare le canzoni e si capisce. Tra l'altro io devo dirtelo, canticchiavo la vostra canzone anche dopo l'intervista e anche in questi giorni, mentre sapevo poi è come se così, no? È una canzone molto bella e molto radiofonica, quindi ti faccio sapere in questo momento che se voi siete d'accordo, noi pensavamo insomma di poterla mettere in palinsesto, in rotation, nella nostra emittente radiofonica. Tra l'altro colgo l'occasione anche per farvi sapere che il sintetico poi potrete anche guardarli sul video che noi pubblicheremo insomma in questi giorni, registrato proprio qui all'Ares in occasione della presentazione di questo nuovo bellissimo lavoro. Va bene ragazzi, cosa ci fate ascoltare ancora? Adesso Foglie senza tempo. E poi altri brani ancora, ma non ve li diciamo adesso, così dovete seguirci. Aspetta, sorpresa, va bene, sintetico qui all'Ares, incontrata Galizia Cefalù, questo pub davvero molto accogliente, vi invitiamo a venirci a trovare, il tutto in diretta su CRMP Radio con Rock Revolution versione dal vivo, e quindi buon ascolto, il sintetico. Oh, Grazie. Sotto sequestro che con un gesto voglio liberare, rapite da chi sa manipolare i sogni, sensi, i gesti. Anime senza peccato che con un verso voglio raccontare, illuse da chi sa ingannare e poi abbandonare. Muovimi in questa scena d'immagini di eroi. Questa sera su CRMP Radio abbiamo avuto l'occasione di ascoltare la musica dei Sintetico. Adesso fra pochissimo purtroppo ci saluteranno, però volevo salutare un po' gli amici su internet che hanno scritto su Facebook. Eva, ci sono un po' di amici che vi salutano. Allora, bravissimi Sintetico, di dove sono? Di dove siete? Di Palermo, vabbè, questo è facile. Poi li avevo già visti a Palermo, complimenti come sempre. Marco, dobbiamo salutare anche Mariana che ha scritto prima l'altra domanda, l'altro messaggio. Poi, peccato non essere presente dal vivo, spaccano. Luca, lo salutiamo. Posso, dove posso ascoltarli dal vivo la prossima volta? Anonimo, dove li possiamo sentire? Prestissimo a Palermo, in questo momento la data precisissima non l'abbiamo, però su Facebook dei nostri prossimi live. Benissimo, poi arrivano altri messaggi da internet su Facebook. Allora, c'è già, sono sintonizzata, aspetto con ansia i Sintetico a Palermo. Poi ancora un altro, leggiamo qualcun altro così sono contenti gli amici. Grandi Sintetico, sentiremo parlare di loro. Tieni questo, tieni. Okay. Sentiremo parlare di voi, secondo me sì. Speriamo. Secondo me noi sì. Suoniamo e voi ci dovete ascoltare. Poi ancora un saluto agli amici su internet, no? Grandissimi, Stefano, salutiamo gli amici su internet. Allora, salutiamo tutti i nuovi amici su internet, perché a parte alcuni amici che probabilmente ci seguono sempre, ci stanno mandando i messaggi, ci sono nomi troppo nuovi per noi e questo ci emoziona tantissimo. È bello, insomma, sapere che c'è un riscontro. Poi volevo cogliere l'occasione per ricordare anche ai nostri ascoltatori in radio e su internet il vostro sito, il vostro MySpace, insomma tutti i canali dove è possibile arrivare a Isintetico. Allora, www.isintetico.it ed è il nostro sito, poi e lì troverete praticamente tutti i collegamenti, perché siamo ovunque: Facebook, Twitter, MySpace, chi più ne ha più ne metto. Bene, vabbè, su MySpace, su Facebook si può cercare Sintetico Band, sì, no? Sintetico Band Contatti, ecco, e da lì potete mettervi in contatto con loro. Poi ancora saluti ad Andrea e Annalisa che vi seguono su internet, è una richiesta, se li salutate cortesemente. Ah, ok, un saluto ad Annalisa ed Andrea. Bene, bene, allora Eva, purtroppo gli ultimi due brani, poi insomma mancheranno le occasioni risentirci per ascoltare Sintetico dal vivo. Cosa ci fate ascoltare? Adesso un nuovo brano che si intitola Un giorno in più. Questo non lo trovate nel nostro EP, lo troverete nel nostro prossimo CD. Ah, che bello, quindi c'è anche un CD prossimamente, è una bella notizia. Piano pianino, però sì. È come quando si dice, sai, aspetto un bambino. Questa sera mi dite questa cosa qui, sono molto contento. Vabbè, allora Sintetico, grazie Eva. Sintetico su CRMP Radio con Rock Revolution dal vivo dall'Ares in Contrada Gallizza, Cefalù, il tutto chiaramente in diretta su CRMP Radio. Buon ascolto. Come vorrei che tu fossi qui. sposa, Eva fragile, sarò la tua droga, così semplice, e cercherò per infinite ore di raccontarti la storia di un imperatore, è la favola dei giorni. Il sintetico su CRMP Radio Rock Revolution questa sera alla Disco Pub Ares in Contrada Gallizia. Sono arrivati un sacco di messaggi, Eva, di amici. Facciamo un bel applauso per il sintetico, ragazzi. C'è Falù, è un posto un po' difficile per la musica inedita, ma credo lo sia un po' dovunque, purtroppo, no, Eva? Non mi ripeti. Purtroppo, dico, c'è Falù, no? Come probabilmente sì. Anche molti altri posti in Sicilia. C'è qualche difficoltà nel recepire la musica inedita, non so se ho usato il termine adatto come ricezione, ma un po' per tutti ciò che è nuovo è difficile, bisogna ascoltarlo, riascoltarlo sino a capirne davvero magari il significato. A me ad esempio capita di comprare un CD, di ascoltarlo la prima volta e non sentire quelle emozioni particolari, poi magari la seconda, la terza volta lo riesco a capire, insomma a memorizzare anche. Ed è uno dei motivi per cui con questo EP, risentendolo spesso in radio, ringraziando tutte le radio, la vostra radio. Grazie mille, grazie a voi, ecco, di essere qui. Che farà sicuramente girare almeno un pezzo dei nostri... Assolutamente, ma già l'abbiamo detto, tra l'altro voglio ricordare ai nostri ascoltatori che purtroppo ci stavano chiedendo su internet di continuare la serata, però voi siete insomma impegnati in un tour abbastanza faticoso, quindi è stato già un piacere avervi qui per questi minuti, e che potrete poi ascoltare il sintetico, chiaramente anche sul MySpace ci sono alcuni brani. No? Certo, sì, potete ascoltarli da lì. E poi ci sarà la replica del nostro programma domenica sera, e anche ascoltarvi poi in podcast, quindi potete scaricare la puntata del programma live e ascoltarli di nuovo dal vivo in questa, tra l'altro una registrazione, forse la prima dall'uscita di questo nuovo EP, registrazione dal vivo. Sì, sì, magari facciamo un cofanetto di sintetico sarebbe live. Splendido. Intanto noi cogliamo invece l'occasione per ringraziare Ares, il pubblico di Ares e soprattutto tutta la squadra di Rock Revolution, che dà davvero la possibilità ai gruppi inediti di esprimersi liberamente e arrivare un po' ovunque. Grazie, sono diventato rosso, guarda, è una cosa che noi ci battiamo tantissimo per questa cosa, perché pensiamo che la musica inedita, la musica emergente debba essere valutata per come merita, e quindi anche i locali come l'Ares, anzi ringrazio Giuseppe Barranco, che è il proprietario di questo bellissimo locale, anche l'associazione Se Fuori Nel Cuore, che ha dato l'opportunità a voi e a noi, insomma, di proporre anche in radio la musica emergente, la musica bella italiana, in questo caso del sintetico. Allora, quindi noi ci salutiamo questa sera, voi partite per questo tour. Grazie, sappiate grazie che Rock Revolution porta bene, almeno ci è stato detto così da diversi altri amici. Ci ha portato bene da dicembre ad adesso, ecco, perché non ci possiamo lamentare. È un crescendo. Andrà sicuramente bene. Ringrazio dai. Tutti quanti, insomma, chitarrista, bassista, grazie. Felipe, Nicola, Florio alla chitarra, Fabrizio il Bohemian, Nicolosi al basso, Felipe Prefetti alla batteria e campionamenti, abbiamo Massimiliano Tarsilla perché è il nostro fonico, senza infatti, di lui anche lui è importantissimo, nulla. È la vostra manager che vi accompagna, che si chiama Valentina Barresi, che salutiamo e facciamo i complimenti, un grandissimo in bocca al lupo per spingere al massimo questa grazie band. Grazie ragazzi. Una band siciliana, una band che deve farsi conoscere, che deve sfondare, ragazzi, mettetecela tutta, vi vogliamo vedere, insomma, e sentire in radio, su MTV, dovunque, il sintetico da Palermo ve lo auguriamo di gran cuore e faremo il massimo per supportare questo vostro progetto. Grazie ancora e buona continuazione. Grazie a voi, davvero. Allora Simone, è andata bene, sintetico, presentazione dell'EP, siamo molto contenti di aver fatto questa presentazione qui all'Ares, in Contrada Galizia Cefalù, dove ci fermeremo tra l'altro ancora a far musica, tra l'altro adesso è pronto in console Marco Nicolosi per farci ascoltare, insomma, un po' di musica per accontentare tutti quanti i gusti. Sono arrivati degli altri messaggi su Facebook per il sintetico. Sì, sì, sono arrivati davvero tantissimi messaggi, leggiamo ovviamente uno dei tanti, appunto, bellissima anime sotto sequestro, ed è semplicità, l'unica arma che disarma, ovviamente era una parte del testo della canzone. Davvero complimentissimi a tutti i componenti del gruppo, in particolare al chitarrista, bravo, bravo da Annalisa. Ovviamente estendiamo anche noi tutti i complimenti a tutta la band. Assolutamente, Simone, quindi siamo arrivati oggi a conclusione di questa puntata speciale di Rock Revolution dal vivo. Che ce ne importa, insomma, non ci andiamo più in studio, stiamo fuori nei locali a fare musica dal vivo, che ne pensi? Sono d'accordissimo. Che ben venga la musica inedita in radio e nei locali, ce ne vorrebbe davvero tanta. Grazie a tutti, quindi ringrazio te Simone, buona serata. Buona serata a voi. Ringrazio la nostra regia Gianni Testa, Ida Parlavecchia, la nostra redazione, tutti gli amici che hanno fatto parte, ci hanno dato una mano. E appuntamento chiaramente venerdì prossimo dalle 21 a mezzanotte su CRMP Radio con la musica rock, la musica emergente, i grandi successi e gli artisti emergenti, sempre chiaramente dal vivo per Rock Revolution. Adesso noi vi salutiamo, passiamo la linea alla regia, mentre qui all'Ares continueremo a far festa, quindi mi raccomando, veniteci a trovare, ci fa anche piacere. Contrada Galizia Cefalù, proprio dove c'è il passaggio a livello, sulla destra fate la stradina 100 metri e trovate l'Ares, che si è trasformato quest'anno in un pub oltre alla pizzeria, ed è una cosa molto molto carina. Grazie a tutti e buonanotte.